5B. Ascolta e rispondi. Avete aperto un conto in banca? Sì, abbiamo aperto un conto in banca. Avete coperto i bambini? Sì, abbiamo coperto i bambini. Avete scoperto la verità? Sì, abbiamo scoperto la verità. Avete sofferto molto? Sì, abbiamo sofferto molto. Avete offerto da bere agli ospiti? Sì, abbiamo offerto da bere agli ospiti.